Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, come ogni giorno facciamo il punto sul coronavirus. Oggi in studio con me il professor Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche del Sacco Università di Milano e past president della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno a lei e a tutti. Primi due casi accertati di coronavirus in Italia, una coppia di turisti cinesi ricoverati in isolamento allo Spallanzani. Sono in Italia da 8 giorni, sono atterrati a Malpensa e arrivati a Roma dopo alcune tappe. Professore, durante questo periodo quanto è alto il rischio che abbiano contagiato persone con cui sono venuti in contatto? Credo complessivamente non altissimo. Si è stimato recentemente che per ogni persona infettata ne vengono infettate altre 2 fino a 2,6. Non sappiamo se questa stima sia esatta e comunque dipende da molte circostanze, ad esempio dipende da quando tra la comparsa dei sintomi e il momento della precedente infezione si inizia a poter spargere il virus. È possibile che ne venga sparso molto poco prima dell'insorgenza dei sintomi e quindi se questi due signori sono stati riferiti allo Spallanzani, come credo, già da qualche giorno, è improbabile che si siano lasciati dietro una scia. Ci sarà sicuramente il controllo necessario dei loro contatti precedenti. Professore, ora che il coronavirus è arrivato in Italia, ci sono delle precauzioni particolari che si devono adottare? Ad esempio, potrebbe essere utile vaccinarsi in corso contro l'influenza stagionale? La prima precauzione è non lasciarsi prendere dal panico e da paure che non hanno senso. Possono essere vagamente a rischio soltanto le persone che hanno soggiornato in aree in cui la malattia c'è e che hanno manifestato la malattia. Io sono un grande paladino della vaccinazione anti-influenzale. Vaccinarsi contro l'influenza va bene a prescindere, non serve purtroppo per difenderci da questa malattia. Serve per toglierci la paura eventualmente di avere dei sintomi che invece di essere banalmente dell'influenza sono causati da questa malattia. A proposito di sintomi, se i sintomi sono gli stessi di una comune influenza, come si fa a distinguere i casi sospetti? Appunto, l'ho detto. Un messaggio esclusivamente sospette sono le persone che hanno soggiornato. Appunto, non solo che hanno soggiornato nelle aree direttamente interessate dalla malattia, ma che hanno espresso sintomi. Ecco, per cui mi piace che lei lo sottolinei. Sì, anche perché direi che è un meccanismo difensivo per tutti, anche per il nostro sistema che sta a livello di sistema sanitario. Ecco, anche questo mi piacerebbe sottolineare. Esiste un sistema che sta funzionando. In Lombardia, ad esempio, 17 centri di malattie infettive in altrettanto ospedali che sono mobilitati anche per lo screening, la valutazione di questi casi. Benissimo, non intasiamoli di cose inutili. Grazie professor Galli. Il professor Galli rimane con me per tutta la nostra diretta Facebook, quindi vi aspetto per tutte le domande e le considerazioni sulla pagina di Obiettivo Salute, mentre la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog. Buona giornata.